Al di là del bene più prezioso, ci sei tu. Al di là del sogno più ambizioso, ci sei tu. Where you walk, flowers bloom. When you smile, all the gloom turns to sunshine, and my heart opens wide. When you're gone, it fades inside and seems to have died. Au di là, I wondered as I drifted, where you were. Au di là, the fog around me lifted, there you were. And the kiss that I gave was the love I had saved for a lifetime. Then I knew all of you was completely mine. Al di là del mare più profondo, ci sei tu. Al di là dei limiti del mondo, ci sei tu. Al di là della volta infinita, al di là della vita, ci sei tu. Al di là, she said.